tutti i supporti sono tutti in acciaio inossidabile, viti in acciaio inossidabile, fasciate in acciaio inossidabile, gli isolatori sono tutti in teflon e in bacchilite, quindi soprattutto teflon buono, bello robusto. Il PL non è sotto come la mantova, è laterale, quindi non ne prende acqua, capite? Carlo, ma sei in condominio? Yes, in condominio. È molto grande il mio quadrantenne. Guarda, io ovunque ti giri dal mio condominio è tutto pieno di ripetitore. Ho il palazzo della Telecom di fronte, poi ci sono dei palazzi nella mia via dove hanno installato dei ripetitori Vodafone, Wind, quindi c'è l'invasione delle antenne. Sì. Sì, perché qua la credo che sia 8 metri spiccioli, quindi è più adatta per una situazione, diciamo, campagnola che condominiale, ma anche per le scariche, occhio, no, non bisogna guardare il vento se cade, pazienza, ma là sono i fulmini, capito? E il metallo, io infatti... Siccome ho la cosa lì, il traliccio anche, di quell'altezza non ho messo niente, sono tutte ricoperte in retrosesina per sicurezza, perché se arriva una cosa è un casino. Nel condominio è peggio, perché con le nuove leggi adesso non sei responsabile, qualunque cosa capiti che attira il fulmine, Claudio non sa qualche cosa poi. Ho capito, sono tutte cose da valutare, insomma, perché diciamo è molto più vistosa rispetto a quella che ho, senza dubbio. Per le questioni a me non mi fanno problemi, perché diciamo qua nel condominio dove abito io si rivolgono tutti a me, perché sono un factotum, a parte l'amministratore, quando non c'è lui i vari problemi li risolvo sempre io, per cui non mi dicono niente se voglio installare un'altra antenna o magari cambiarla, capito? E devo valutare tutte queste altre questioni. Comunque, Claudio, se mi stai ascoltando, magari già ne parliamo, magari una mattina se sei disponibile, poi nel caso ci fidiamo. Non c'è problema, caro, figurati. È come ti ha detto Gianfranco, per questi tipi di antenne così da 8 metri e truscia, secondo l'altezza del palazzo che è, risulta un po' pericolosa per i fulmini, capito? Infatti sono antenne che lavorano molto piano terra, io questa l'ho presa per quello, perché avendo il piano di terra, ad esempio questa antenna dove ero prima non potevo montarla, assolutamente è troppo alta, già il palazzo dovevo l'antenna era 45 metri, quindi era già faceva il carbonazzi, io faccio, mentre questa lavora da terra e c'è un palo da 2 metri attaccato al muro e altre 2 metri, quindi diciamo che sta lavorando 2 metri l'antenna. Io dico 4 metri perché sono due elementi da 2, però uno è attaccato al muro, chi lavora è quello che sostiene l'antenna da 2 metri. Quindi immagina che tu ci dovessi portare ancora più in alto, vado incontro a dei pericoli, perché la campagna è sempre più a rischio per appunto i fulmini e i temporali, e perciò la lascio stare così. Sono più che soddisfatto, capito? Adesso sto andando con la mantova, ma se tu stai attento, vabbè, non puoi darmi segnale, ma l'abbiamo già visto, se io dovessi commutare, passare con l'altra radio da GPO, tu vedi il segnale che sembra che hai attaccato un amplificatore. Ho capito, e vabbè, ci devo un po' pensare su adesso e vedere, magari ne parliamo un altro momento, sicuramente una di queste mattine o magari anche un pomeriggio, perché no? Bene Meda, discorsi interessanti, grazie anche Gianfranco per il consiglio, perché in effetti così, se andiamo a vedere le leggi condominiali, in effetti sì, bisogna considerare soprattutto quelle cose, perché se poi uno non è responsabile paga tutti i danni, quello senza dubbi. Io adesso mi sa che chiudo e me ne vado a cena, perché si è fatto un po' tardino. Sì, ok Carlo, buona serata e buona cena, allora riprendi Claudio. Lasciate un attimo di bianco, ciao caro, quando vuoi non c'è problema, eh? esserci così, vedi un po', insomma, ti spiego un po' la situazione, ma come ti ha detto già Gianfranco, il limite di queste antenne è quello, capito, antenne così alte, è sempre un problema montarle su condomini così da 3-4 piani, perché vai a salire troppo. Io ti ripeto, sto lavorando 2 metri da terra, considerando il fatto che 2 metri sono di tubo e 2 sono attaccati al muro, sto lavorando 2 metri da terra, quindi vado a non mettermi molto nei guai. Se dovessi metterla all'altezza che dico io, con tutto il sistema che ho, andrei a 7-8 metri di altezza più 8 di antenna, siamo già a 16 metri, diventa un po' pericolosa la cosa, capito? Comunque ne parleremo, dai, ciao, buona cena, buon tutto, grazie delle due chiacchiere, vai Gianfranco. Sì, ciao ancora Carlo, buona serata. No, noi per un certo verso, Claudio, siamo più esposti, però tieni presente che noi ci abbiamo anche vicino gli alberi, quindi non è detto che se la possa prendere con gli alberi, che sono sempre bagnati, hanno la linfa dentro, quindi sono degli eccellenti conduttori anche loro. Però sai, quando è lontana l'antenna, ad esempio nel mio caso io ho il flex, c'è il flex che è praticamente un tubo d'acqua, però è sottoterra, proprio interrato, quindi per arrivare il fulmine deve percorrere 30 metri sottoterra, quindi c'ha tutta la possibilità di far esplodere il Celflex e di scaricarsi a terra, almeno così spero, perché sennò fa migliaia e migliaia di euro di danni, cioè fa centinaia, fa qualche migliaio di euro di danni, dai, se riesce ad arrivare. Però noi siamo soli, capito? Il vantaggio è che tu non rispondi a nessuno. In un condominio invece, inizia quello del piano di sotto a dire che aveva fatto esplodere il televisore, quell'altro di sotto che aveva esploso il frigorifero, l'altro del rettile, insomma, adesso noi non siamo così facilitate, capito, se siamo causa di danno, perché dico, ma com'era, era a terra, era assicurato, eccetera, il condominio sta diventando un rischio, meno male me ne sono sbarazzato, e penso che anche tu sia d'accordo. Gianfranco, non avere paura, non succede niente, montate tutto il condominio. Non so chi eri, perché il segnale è talmente forte che la radio lo distorce. Una persona con molta esperienza in tal senso, quindi tranquillo, ecco, abbassa, tranquillo, puoi fare quello che vuoi, non c'è problema. Ok, non ti riesco a capire, mi sembri Fabrizio, però non ti... guarda, ti vorrei registrare per farti ascoltare, non riesco a capire. Questo è un baracco. Claudio, paradossalmente farmi da ponte. Dai, te lo regolo, che adesso l'ho toccato col gomito. Come adesso qua? No, io ti ho capito. Allora, adesso ti sento anch'io. Me lo ripeti? Vedi tu, già c'è problema da segnare dalla radio. Beh, vedi Gianfranco, Fabrizio, ti può dare delle dritte più di me, però io... Il condominio non è stata colpa mia perché il fulmine ha scaricato sulla cabina elettrica, ha fatto un casino a tutto il rione, capito? E ci sono passato anch'io di mezzo, perché chiaramente il mio condominio, la prima cosa che ha detto è che la sua antenna ha tirato il fulmine, ma li guardiamo va vedente. Lasciamo perdere, bene Fabrizio, buonasera, sì, lasciala così che va bene. E anche io posso dire che siccome stavo parlando c'è Gianfranco lì e mi ha disturbato adesso, e mi è caduto una cosa, mi ha fatto un buco nel piede, gli chiedo i danni adesso, non mi dispiace Gianfranco, vediamo cosa dice il giudice. Tutto uno può dire in condominio, se sono le cose che hanno detto a me, e io un po' di esperienza in tal senso ce l'ho, Sì, non ho capito l'inizio comunque che avevi detto prima, non è questione di paura, è questione che diciamo, quando si vedono quello che combinano, il rischio c'è sempre, ecco. Siccome io sono stato in condominio e nessuno ha mai detto niente, eccetera, eccetera, però ho visto anche delle situazioni di certi vicini che sono diventate un po', come dire, fastidiose, perché all'interno del condominio c'è sempre, lo sai, quello che è tirioso, no? Che ti porta in tribunale, qua, il periti, eccetera. A me grazie a Dio non è capitato. Adesso è molto più difficile che capiti, perché se colpisce, colpisce a me, quindi problemi non ne ho. Poi, ripeto, la maggior parte dei cavi sono tutti sotterrati. Probabilmente dove c'è la canala in plastica sono anche sott'acqua, perché accumula tanta acqua questo canale, che è qualcosa di micidiale, anche se sono tappate aperte la stessa cosa. Quindi è sempre stare allerta. Sì, se vanno a mangiare mica allerta, devi stare allerta, però in condominio tu come radioamatore lo dovresti sapere meglio di me, puoi piazzare senza nessun problema, a tu rischi qui con le antenne quando si arriva un attimo, quando si socioari non c'è, io a parte c'è una assicurazione molto particolare privata, io ho un po' di esperienza, sai che è entrato un fulmine dentro casa, quindi so cosa è successo a tutto il condominio, a tutti quanti, a parte tutto da dimostrare, indimostrabile che il fulmine possa essere entrato dalla tua antenna, perché è indimostrabile. A parte che perché ci sono mille fattori, e poi in ogni caso invece entrato, poi basta avere una piccola assicurazione per evitare più che altro per i danni tuoi. Io ci sono passato in condominio, non c'è un antennino, tu non so se sei mai stato sotto casa, ma c'è un tralicio di 12 metri con un bel po' di antenne sopra, oppure ci hanno provato, ne hanno detto di tutti i colori, e ho detto fate quello che volete, il tribunale in via Roma, hanno scritto l'avvocato e stanno ancora correndo. Poi vi saluto, ad andare a mangiare. Ok Fabri, ciao, buona cena. Via comunque le scatture ci sono sempre. Vabbè Claudio, meno male, come detto, noi con le scatture non ce l'abbiamo. L'unica seccatura è che se dovesse capitare ci rimattiamo di prima persona, ma almeno ci ricompriamo tutto e finisce lì. Ecco, non dobbiamo comprare roba ad altri. Eccomi qua, sono rientrato. Gente che è miserabile, cosa vuoi fare? No, perché Antonio? Giustamente o ingiustamente, come preferisci, l'antenna può essere una causa, come non lo può essere, come ha detto Fabrizio, è difficile da dimostrare. Però, sai, ti voglio vedere a te, se te ne entra un fulmine e ti brucia mezza casa, con chi te la prendi? Magari sopra c'è un bell'antennone, eccetera. Quindi insomma sono grato a Cappi, non è così semplice come la gente pensa, perché c'è sempre qualcuno che poi ti fa arrivare la letterina, l'avvocato, c'è il tribunale che ti convoca, insomma sono casini grossi. Di norma non ci si pensa, però poi la storia quella è sempre. Avanti Claudio. Ciao, anche buonasera, mi ha ascoltato Fabrizio, cioè è dimostrabile, hai capito? Fulmine può entrare anche se non c'è niente. Non è detto che siamo sempre noi la causa di questo, io l'ho soltanto messo in mezzo, ma perché tramite l'Enel tutto ciò che poi è stato fatto, a me mi hanno tolto in mezzo ai casini, perché tra l'altro io avevo in quel periodo, avevo la Mantova e l'antenna VU e il dipolo 10, 15, 20 e 40, capito? È capitato che ho montato la tre elementi, ho montato il sistema che appunto avevo comprato da Fabrizio, proprio mi aveva montato tutto lui, tutte le direttive eccetera, e manco a fare la posta 3-4 mesi dopo, perché era il periodo estivo che avevo montato le direttive. Nel periodo invernale è passato questo temporale, una cosa allucinante, un fulmine a me non mi è entrato dentro casa, ma comunque mi ha crepato tutta la parte elettrica, quindi è chiaro che non è una cosa dovuta da me, perché sono passato anche io elettrodomestici, tutto compro computer, scaldabagno, lavatrice, due televisori, quattro la radio, tre alimentatori, mi ha fatto un danno allucinante, capito? Come me, a me, vabbè, la radio è mezzo, ad altri tutti elettrodomestici e balle varie. E la mattina proprio, perché era successo di sera a casa, sono intervenuti in vigile a fuoco, perché si è incendiata la cabina di carbonato, era partito il trasformatore e tutto, o come cacchio si chiama, e si è intervenuta la squadra dell'Enel, tutto cerca di ripristinare, perché tutto arriva nel matto al buio. Il mio condominio, il mio proprio specifico, la mattina sono stato convocato dall'amministratore, dice appunto che aveva ricevuto un'email dando la colpa a me, che io ero la causa di questo problema. Io la causa, capisco di ubriaco, ma 6.000 euro di danno, ma di cosa stiamo parlando? E comunque non c'è stato niente di più, insomma, però ho rotto le sballe, capito, lettera all'avvocato, bim bum bam, io mi sono messo il mio. A fin fine, per farla breve, l'Enel ci ha rimborsato l'80% dei danni. Insomma, il condominio è stato messo a posto, tutto ripristinato, e alla fin fine il condominio stesso ha mandato un'email che poi mi aveva girato a me l'amministratore, un'email di scuse, perché si erano accorti che appena si è fatto io non c'entravo niente, tutto qua. È chiaro che, come dici tu, sono rotture di balle, però Fabrizio ti ha spiegato esattamente qual è il problema, ma lui proprio che è in mezzo e ci lavora nel settore elettrico, quindi è così, capito? È indimostrabile, come fai a dimostrare che sono io la causa? Come fai? È caduto, il fulmine ha preso praticamente proprio l'angolo del giardino dove c'era la cabina elettrica, da lì è partito una fiammata allucinante, il cancello l'ha attaccato di netto e l'ha coricato fortunatamente all'interno del giardino, se lo butta fuori, prende qualcuno passando, qualche macchina l'ammazza, perché è un cancello enorme da 6 metri, quindi immaginati tu, è chiaro che non l'impianto mio qua, è fatto quello al tuo, io ho la traccia, i carri passano sotto traccia, perciò non ho problemi, sono interrati nel giardino fino ad arrivare alla finestra dietro il casello dove io ho le radio, capito già? Devo essere cagato più io che ce l'ho sotto la testa, cioè, immaginiamoci. Neanche quello si può dire, perché il fulmine è incontrollabile. Sì, e comunque io dicevo che proprio il mio discorso era quello, a prescindere dal colpe, sai, si cerca sempre un colpevole, poi magari se ti capita anche la sfiga di un giudice, devi essere un pochettino, ci siamo capiti, no? Ti inguai proprio seriamente. Purtroppo è così, è un rischio che corriamo tutti. Noi lo corriamo di più perché siamo in zona, diciamo, di campagna, eccetera, anche se, ripeto, ci abbiamo tanti alberi, quindi magari se la tira l'albero, certo il danno ce lo fa lo stesso se cade vicino. È chiaro che l'energia è tale che potrebbe anche farti saltare qualche cosa a casa, però di lì sono fatti tuoi, non sono fatti degli altri, capito? Quindi sotto quell'aspetto, Claudio, noi siamo più tranquilli, può anche capitare, tocchiamo ferro, il fulmine diretto, quello provoca incendio, quello ti muove la casa, fa le crepe, insomma succede delle cose che neanche ci immaginiamo. Uno, figurati, mi raccontava che l'entrata a casa in paese, è entrato questo fulmine, è entrato da stessa cosa che è successa a te, Claudio, è entrato dentro e ha fatto tutte le canali elettriche praticamente, no? Le ha fatte nel senso che ne è uscito il cemento, sono esplose, no? È uscito il cemento e hanno camminato, praticamente poi per rimetterle non c'era neanche bisogno di scavare. Figurati che danno, le ha fatto saltare il telefono, le ha fatto saltare proprio un altro po', lo colpisce in testa. E quello era un fulmine probabilmente diretto. Vabbè, però io mi ricordo le foto che ha fatto girare Fabrizio, ed era una cosa spaventosa da vedere. C'era incendiato a Gaza, no? Sto scherzando. se lui era seduto lì in radio l'avrebbe fulminato, cioè ha incendiato la poltrona, capito? Preso fuoco tutto, pavimento, cucina, cioè ha fatto un casino della Madonna, cioè di cosa stiamo parlando, è chiaro che è una cosa indescrivibile da vedere, indescrivibile da vedere, però io spero che insomma vada tutto bene, lui si rispettano e ci metta molto a togliere l'antenna e una parte tutta al globo, cioè io voglio la sicurezza della mia famiglia, a me non me la frutti nulla del radio. Ok, dai, io mi lascio in compagnia di Antonio, lascio tutto acceso qua, però devo andare a pappare, sento già profumino, rumore dei piatti, ok, se ci siete ci sentiamo avanti Antonio. Cappa, ciao Claudio, ce la risentiamo alle prossimine, avanti già fra chi c'è altro? Attualmente ci siamo solo noi due, anche io devo andare che ancora non ho cenato tra l'altro, perché sono un po' male di stomaco, provo a mangiare qualche cosa, ma di proprio uno spuntino così, e poi passo alla TV. Tu entri sempre tardi, quindi arrivi sempre quando ci sono i titoli di coda, tanto accidenti. Purtroppo io esco tardi dal lavoro, capito? Adesso poi mi sono fatto la doccia e sono salito e mi stavo ascoltando. Comunque io, cioè, devo essere spaventato, perché io mi spavento molto quando ci sono i fulmini. Cavolo, c'ho il sottotetto qua, l'antenna ce l'ho qua sotto, sopra la testa mia, ti puoi immaginare, vabbè che c'ho due parafulmini, perché c'ho le chiese, capito? Sì, dipende da che distanza sono, però miracoli non li possono fare. E comunque un po' di energia te la potrebbero anche radiare verso di te, perché sono veramente migliaia e migliaia di ampere in gioco, migliaia e migliaia di volte. Comunque, insomma, siamo stati 30 anni senza avere questi problemi, meno male. Non è che ci dobbiamo fasciare la testa per allora, dobbiamo sapere che però queste cose esistono e ci sono. E purtroppo con questo cambiamento climatico non è che possiamo stare più tranquilli, però andiamo a vedere, come si dice, che Dio ce la mandi buona e senza vento. Poi siamo tutti sulla stessa barca. Tanto ti saluto, dai, buonanotte, io vado a cena e poi vado in TV. Alle prossime, Eia, ciao, ce la risentiamo, ciao. Alle prossime. Ciao anche a chi mi ascolta. Buona serata a tutti. Ciao Giancarlo, ce li ascoltiamo, ciao anche a te. Se ci sei dopo, magari facciamo un occhietto. Ok, vado a pappare, ciao a tutti, buona cena, ciao. Io sono rientrato, sono arrivato a casa, E io, mi c'è Antonio Bombolo, sentiamo dopo l'Ugaria, riprendi con Antonio. Tanto la nuova, prendo l'antibiotico, andavo, e poi Bomboli. Vabbè, allora. Qua siamo. Un po' giù, cazzo, oggi proprio, mamma mia. Cappa. Aspetta che rispondo un attimo, dimmi lui. Dico, sono un po' giù, mi ha rimartoriato il tuo manzano. T'hanno infurruggiato? Ma non la gannano. Ho visto no. Pianto, purtroppo sì. Vabbè. Adesso mi sa che prendo l'occhi, poi dopo prendo l'antibiotico. Cappa. Piano, che te fuori è fissato, con questi furruggiamenti? Come che hanno infurruggiato da letto? Ma rugiamo furruggino, Antonio! Adesso dovreste ci perdonare. Chi è che mi ha chiamato? Avanti! Ma antibiotico, lui dovete prendere per quanti giorni? Fino a domenica. Quindi stai alternando, va? Alternando? No, faccio dalle 9 di domani, ho fatto stamattina 9 e 21, poi domani 9 e 21, dopo domani 9 e 21 fino a domenica, 9 e 21. ore alterne. Vai, vai, anche lo metto in diretta, sto facendo la cena io. Cappa, mi balliamo un po' pompa, va. Era, io. No, quello che mi stava chiamando. Non ho sentito. Cappa. C'era un segnale alto, c'aveva. Prego, è quello che vuoi che ti dica. Ma hai dato un computer, fatto. Ha giocato una giusta, la scheda video, un buon boe, lo sistema, adesso lo uso io. Ho messo Windows 10. E va, più che bene. Già non credo che andava già. Che so che, ma da me, mi sembra un po' così. Cosa tu? Che mi devo più là, mi devo cercare un computer un po' migliore. Perché cosa c'è quello già tu io? Un po' anzianotto. Tu, ma pure papà di musica andava. Poi se vuoi andare a navigare, tu conto. Scusa. Cappa. Vabbè, devi fare un po' condotto, Ma io lo uso anche per navigare. Poi se vuoi un PC sito, come dici tu, lo paghi 200-300. Usato 200-250, anche 300, dipende da cosa vuoi. Isso. Quindi questo qua l'ho sistemato, cosa si fa? 100 euro, ma cosa si fa? Sì, 100 euro si li fare. Sì, no, già. Per quello che va anche troppo bene. Va bene pure per guardare film pornografici. E a voglia. Tu pensa su Marketplace, o te che si chiama, c'è un tipo che sta vogliendo un computer senza hard disk, senza RAM, non funzionante, 100 euro, cazzo c'è. Già lo so già. Stavo scherzando. Chi si buca lì, cazzo, chi si già terrone, già avvero un computer. Hola. Mamma mia, cosa ho passato oggi, non me l'aspettavo. Tutto questo, cazzo, via, esci, mi sono che impigiamando. Quindi non me l'aspettavo, poi era un altro, come si chiama? Un altro dentista, un altro assistente, non era il mio, perché il mio è patologia, non è fatto. Ah, ho capito. E tane, mamma mia. Se mi vede da sussi. Dai, cos'è? Bianco sì. No, non sono bianco, no, anzi. No, sotto pieno di punti in bocca. Pesuga. Se vuole una cosa fatta devi soffrire. Dice un paio di giorni poi già passano i dolori. Cosa dicono? Infatti sono lì per lì, si prendono una bustina. Fanno un po' ma lo calmano. Però dopo prendo l'antibiotico. Aspetta un attimino, mi preparo. Poi domani mattina la gastroprotettore. Ah, qui sarebbe già. Per forza, non tu. Tutte queste medicine. Poi loro che ti bucano lo stomaco, per carità, però ti aiuta. Poi seghita, seghita, la vinti. Poi vabbè. Già ti dico che ti muovo guita. Sta qua. Purtroppo bisogna pigliare le medicine. Bisogna prenderle le medicine, sennò è un casino. Stai male. Meno male che esistono su, se no guai, cazzo. La metà di blu più a culo a terra. È fatta apposta, infatti. Oia. Già facciamo qua, cacciara. Ma bugandina tu, i cacciari non fatti male, la vita, non. Porta te non lo leva, ci vuole il punto, ti mette il punto, poi se hai il dolore ti prendi un antidolorifico e ti basta. Questo che ho fatto io è. Cioè ti guso che mi ha bucato l'osso per mettere gli impianti. Addirittura. Mamma mia. Eia Luca. Oggi dritto a casa. Ho visto che è andato una gnicchi. Che cosa andrà a fare, pa? Chi è che vuole entrare avanti? Che a ritirare l'olio e basta. E se non vuole entrare, poi giù vai tu. Cappa. Stavo dicendo, devo ritirare l'olio, boh. perché mi sono dimenticato una cosa di olio. Domani se ne aggiungano, andrò per il ritiro, se no. Già, aspetta. Olio d'oliva? No, olio di riso da friggere. Due anni ma per gli avviaggi in casa a Bono. Pure abbiamo Bono, così ha fatto proprio di Marina. E la zia, pure. A voi ne abbiamo molti. Praticamente un po' di olive, proprio il verdone abbiamo noi. Buona riddua. Che c'è buono, me. Beh, pompo. Beh, come va? Ma come sta parecchio se scende? Con l'FM500S. Cappa. Ogni tanto ho bisogno di fare funzionare tutto. Beh, pompetta. Beh, come va Luca? E giusto che c'ho mica. Mi manchi che a basso c'avevo, adesso ce l'ho giusto. Come va? Come puffi? Eia, già lo so. Siamo poveri e invece quelli che chiamano a lavorare non ci vanno, cazzo, hai visto? A Sassari. Mi hanno chiamato 20 e non ci sono andati. Tu che ne vuoi lavorare non ti chiamano. Come 20 non mi sono andati? Quelli perdono tutto a me. E l'hanno già perso, 20 persone in pratica, Sassa. Li hanno chiamati per lavorare via a fare lavori socialmente utili e si sono rifiutati. Immediatamente li hanno tolto il reddito. Vuol dire che evidentemente lavoravano in nero. Bene, li sta bene. Ma ti hai chiamato, ti hanno poco. No, se mi avessero chiamato sarei stato l'uomo più felice di Sassari, la verità, ma non sarei stato neanche a casa a girarmi i pollici, capito? Anche a me piace stare in giro a fare qualche lavoro, rientrare per dire mezz'ora e mezzo la una, quello che è, come facevo una volta, ma lo passavo l'ora, la sera rientravo a casa e mi facevo una bella passeggiata e poi rientravo a cenare. Hanno fatto bene, se li hanno tolto, hanno fatto bene, restituire i telefoni, i soldi, ladri. Cioè, ti chiamano a travagliare, non vande. Cioè, peggio dovrebbero fare. Peggio, a ma che imparane. Beh, a un certo punto sì. A un certo punto glielo dovevano togliere, capito? Glielo dovevano togliere. E dovevano anche restituire. Ladri, ragazzi, truffaldini. Che c'è qui che vedi, si stai in anche perché si stavano agli altri, non hanno mai dato un contributo allo Stato, niente. In più ti chiamano a travagliare e non vandi. Vai, toglielo. Io non avrei problemi, ero andato subito a travagliare. Vedi, avrei detto dove dobbiamo iniziare, Io figurati, quando era due o tre anni fa, forse quattro, l'ho chiamato a lavorare lì a Lipoto, non stavo da pascià, stavo, facevo le mie quattro ore e poi rientravo a casa. Ma è stata 16 anni, anche a me lavorare, capito? Ma è portato di china e sono pronto a rimettermi in gioco e purtroppo non sono più un ragazzino, non ce la faccio. Ma io vado a gente, cazzo, 30 anni che ho reso cittadinanza in pura linea per mano, cazzo, mamma mia, cazzo di mamma tua che uno, quindi uno forse l'altro fatto con la Ferrari, dato che lavorava in nero, tipo come facevano all'ospedale gli infermieri, per esattezza, perché gli infermieri facevano tutti così, facevano l'infermiere e il secondo lavoro. Così almeno la sera stavano a passeggio, capito, si divertivano. Quindi, me lo ricordo da babbo, quando lavorava babbo lì a Maricuno, tra lui, Gavino Passero, eccetera, eccetera, erano tutti, facevano secondo lavoro, tutti. Quello non è giusto neanche, perché tu stai togliendo il lavoro a gente che dovrebbe lavorare lì. Tu fai un travaglio d'olio, fa un travaglio d'olio e poi te ne chiami un altro di ragazzo, ci cioè, danno sempre avuto il suizio, non è giusto. Però ma queste 20 famiglie che non prenderanno tutte di Sassari sono di Sassari, quelli che erano tutte 20 cittadinanza, tutti 20 famiglie di Sassari sono. com'è, 12, no? Ah, se c'è il PC7, 800, fino a 200 euro, beh, senza far nulla, senza avere un contributo, senza avere un contributo, capito? Mi chiamano a lavorare per dare un contributo alla comunità e a questo progetto che è bellissimo dei servizi sociali, io l'ho seguito, l'ho visto, tante cose belle da fare proprio per mettere a lavorare questa gente, tu non manda che siamo poi là in piazzetta con l'impulla della mia Romano dall'otto di Manzano, uomini di merda. Guarda, io la penso così, uno, io lavoro, perché già non sai che lavoro, da voi si mangia da andare a bere una birra, perché si chiamano dopo lavoro, a una certa ora vado e me la bevo, ma quando ho finito di lavorare, ma non quando sto lavorando si lavora e basta, non bevo niente, punto e basta. Altro dove ero io c'erano i cassetti gratti, quelli di Pollottole c'erano. E quando sono entrato io dovevo salire con Marituno e andare verso a possibile andare a prendere la birra, ma entravo dentro al circolo del campo da tennis che c'era lì a Ippodromo e riuscivo con la cassa della birra e la prendevo, la nascondevo in mezzo alla legna, immaginati tu. E gli ho fatto a mio collega, ha detto ma la birra allora la posso bere? Dice no. Cazzo, ho detto boh, oggi qui dalle 8 del mattino bevendo birra fino alla 1, in piena estate, ho detto. A me mi avrebbe crepato come minimo, ho detto. Ho detto se bevevo la birra vado al circolo, ma vado dopo la 1, non vado tutta la mattina, intanto con una bottiglia in mano. E capito? Facevano così, facevano. Intanto si ammacciava uno, poi si ammacciava l'altro. Come facevano una volta i carabinieri, andavano al circolo, che andavano in gruppo, in 3, in 4, uno in macchina, gli altri 3 a bere. Ma per rispondere a Antonio, tu non te ne metti, meriti una di bottiglia di birra, te ne meriti una cassa, capito? Perché stai lavorando, stai dando tutto quello che puoi dare, sì, al servizio della gente, è un'altra cosa. Ma io quando vado a Termonazzi, perché scendo quasi tutte le mattine, quasi tutte, ok? Vado a Via Maria, Antonio Rossano, prendo le sigarette, un caffè, due chiacchiere con un macellaio, con qualche amico, e poi me ne vado a casa. E sono sempre 9, 9:30, e ci sono questi tossici di merda lì nella piazzetta, birra in mano, e c'hanno tutti il reddito di cittadinanza, hai capito? Vai a lavorare! Ma quello non è neanche da darli, perché poi commettono casini, si comprano la roba cioè praticamente comprano, cosa adesso, si compareggiano i bomboli, si compareggiano i robe così, quando se la rivendono per farsi la dose, ma roba da mamma. Ma secondo te questi sono da dargli la cosa? Chi ci sono pigliati, buoni pigliati e pigliati da cammino, non a stare ancora fuori con la gente. Il provvedimento di cittadinanza, capito? Io li conosco perché sono tutti del rione di Carbonazzi, li conosco di vista, so chi sono, capito? Cioè c'è gente che sta morendo di fame, cazzo, che le dai una miseria, e questi che vivono alle spalle dei genitori, tossici di merda, stanno tutto il santo giorno buttati lì nella piazzetta di Carbonazzi, dove c'è la Sisa, lì seduti, a birra in mano, vai! Ti avrei tolto tutto, ti avrei mandato a lavorare, se non ti avrei fatto morire, tossico di merda. Ma sono da abbigliare i pigiannini da cammino, non sono da stare con la società. Mica io ho avuto, già te la racconto, abbiamo avuto un'esperienza che di poco non ce l'ho buttato dalla finestra, mi iniziano a stare veramente di neve. Io ho avuto un'esperienza cattiva purtroppo, io e la mia compagna, già te lo faccio sapere un giorno. Per me, per come la vedo io, sono da abbigliare e dirgli tu sei così, non puoi stare in mezzo all'altra società, vai, gira le balle. Mi fanno schifo, non ho niente contro questa gente perché è una malattia purtroppo, però a me mi fanno schifo. Vai a fare qualcosa, ritirati, cerca di non dare fastidio alla gente. Sono sempre lì buttati, domandando di sigarette, domandando un euro, e domandando di disco, domandando di tasso, ma quando mai? Ma che schifo, guarda, che schifo veramente, per carità di Dio. Capo. la grappa. Abbiamo ancora poi lasciato tutto di chi è quel frizzolo nero con l'antenna. No, la verità no. Non vedo sempre lì, a lui non lo vedo mai uscire, però solo una volta è mancato per 2 o 3 giorni, evidentemente deve essere il direttore, non può essere altrimenti. Era già capitato una volta, se ti ricordi bene, che qua aveva, addirittura aveva installato anche l'antenna, era un'antenna radiomotoriale che aveva installato, è stato quasi 6 mesi con l'antenna lì piazzata, dopodiché quando è andato via lui, quello si è portato tutto. È andato via, non lo so, la verità che sia, ma il papà va quello che c'è a fianco, quindi figurati, rimane lì, deve essere il direttore, forse rimane lì in ufficio mattina e sera, dorme lì, perché non, la macchina non si muove, è sempre parcheggiata lì con l'antenna magnetica, con l'autobus 2001 e comunque fuori strada. E poi non è roba di Sassari, perché io Sassari non l'ho mai vista, l'ho vista parcheggiata lì sempre, la vedo la mattina, la vedo lì, anche a volte sono uscito di sera, l'ho vista anche di sera, sempre parcheggiata nel piazzale dell'albergo, capito? Quindi è uno che c'è anche soldi, può essere il direttore, può essere qualcuno che c'ha di nero, diciamo, anche in quel consacco di no, non è un bucigatto, non è nuova, nuova. È targata F, figurati, FB mi pare sia targata, pare sia del 2020, se non è il 2021 quella macchina. Va bene, dai, adesso mi hanno chiamato veramente a pappare, provo a fare un falso allarme, vado a mangiare. Se ci siete ci sentiamo dopo, Antu, e comunque, la pensi come me. Lo so, me l'avevi già raccontata quella storia, capito? Tu e Sara me l'avete già raccontata quella storia lì, ed era una brutta storia. Ed è andata a chi conoscevi a te, sicuramente l'avresti distrutto, capito? Però meno male ti sei un po' riservato e non è andata così, però ci sarebbe veramente da tagliare la testa, guarda, perché sono delle persone che valgono meno di zero, hai un problema, statene da solo, ma non stare con la comunità, non dare fastidio alla comunità, perché è vergognoso, capito? Tutti binghinosi, viaggiosi, ma per carità lascia aperto. Dai, riprendi, se ci siete ci sentiamo dopo. Eia, ciao Cla, ci risentiamo. Purtroppo sono persone che non devono stare in giro, ancora sono in giro a rompere le palle. Ok, da. Avanti Luca, che parcheggio. Io sto entrando in luce e poi entro, un attimo. Ehi, un attimino, mi sto facendo la pulizia al computer, Antonio, sono qua, Ciao, Chihuahua. Buonasera a tutti. È vero. Entro in Duccia e Pietro. Ciao, buonasera Porto Torres. Ciao a tutto Porto Torres, ti saluta, ciao, a tra un po'. Eia, ciao. Eia, ciao anche a te. Ben entrato, buona doccia. A dopo. Ciao Eugenio. Ciao Luca Micomini, buonasera, vai, ci sentiamo tra un po'. Eia, fai con comodo. A capa, è un genio, non mi veniva il nome, giusto, ciao Porto Torres. E Eugenio, deve sacrare tutta la sera in girella, se lui subito lui mi sembra che alle 2 ha finito di lavorare. Quando scendo lì al centro storico, incontro sempre a Sara, sempre intorno c'è sempre le cose, ascolta, ce l'hai i soldi per una bottiglia di birra, casa, mi lasci in pace, ho detto, sto parlando con Sara 2 secondi, sto salutando, casa, mi chiedi i soldi, non ne ho soldi, gli ho detto, sono senza spicciole, eppure i soldi ce l'avevo. Cazzo, ma sì, lo so, come cazzo. E mi secondo per pigliarmi, ascolta, posso richiedere a me, con tutta la gente che passa, ma gli richiedi cosa vento lui. Poi ho detto, mi capito qua io. Cosa vuoi fa? So niente che non se no, non vale un cazzo. Io dico che secondo me ho sempre quella idea, ciò che si vuole sarrate. Vabbè, chiusi no, ma fatti lavorare sì. A me mi era capitato quando ho fatto tanto tempo fa questa specie di cosa, di lavori socialmente utili, io ci lavoravo anche a Natalino con la stessa ditta che lui, io. Capito? Ne venivano questi tre, cioè avevano assunto questi tre tipi, cazzo, prendevano, alle 8:30 venivano, entravano al cantiere, lo prendevano verso le 9:30, compa, stavo andando a comprare la birra per tutti, è stato entrato subito, o stavo una settimana senza venirci, poi andava direttamente in banca, lì al banco di Sardegna, avesse banchiera di credito, andava e si ritirava i 300 euro, gli ho detto, perché io mi sono scocciato, gli ho detto, oh, e a me la storia, ha detto, mi va bene, gli ho detto che questo qui, e tu prenda, ha detto, viene e mi piglia per il culo, cazzo, si piglia su e se ne va, e dice, cosa ci posso fare? Ecco, io me ne faccio il culo però la mattina, gli ho detto, vengo alle 8 in punto per lavorare, gli ho detto, in più mi faccio chiamare, gli ho detto, perché stanno tagliando di questi rami tipo rose, in questa scuola, ha detto, e una mi è entrata nel piede, ha detto, mi ha fatto male, chi mi paga a me? Non paga nessuno, perché non siamo assicurati, nemmeno, quindi figurati tu. Allora ho assunto anche queste qua, figurati. No, tu sta manfrando le, adesso non si può più fare, mi lo sai, se no si fuori dalle regole, non lo pagano nemmeno, deve essere tutto a posto, devono essere anche assicurati i dipendenti, se no non ti pagano, capito? Per fare 8 ore alla settimana non penso che per un'ora ti paghino, vai, lascia perdere. Se mi danno, cioè, se in pratica, a parte soldi non me ne danno, perché mi tiro direttamente la reddito, ma sarà siendo 6, 7 o a ora, non di più, quello che mi dia il comune. Capito? Bisogna fare 8 euro. Cioè, ma 8 euro, mio, 8 ore per 3 mesi, cazzo. Quindi in pratica 1 ora al giorno, 3 volte a settimana, capito, devi fare 8 ore. Per fare così era meglio come la prima. Facevo 4 ore la mattina per 3 volte a settimana e stavo benissimo, la verità. Poi vabbè, alla fine mi sono rotto le balle, ho detto, ascolta, ho detto, ma se a posto di venire un giorno sì, un giorno no, ho vengo tutti i giorni, cosa cambia? Dice, io faccio, fai come vuoi, tu mi hai detto. E te perché hai detto a me questa storia, ha detto che un giorno sì, un giorno no, non mi piace per niente. Allora andavo tutti i giorni. Poi alla fine quando dice, guarda che è finito il mese, non ci deve più venire. E tu, vabbè, cosa me ne frega, posso anche continuare, a me non, detto, non me ne sto a casa, anche se non sono pagato, chi se ne frega, gli altri. Cappa, comunque io so che adesso devono essere tutti assicurati i dipendenti, non è più così. Sì, vabbè, se assicurano è bene, se no che se la tronchino a un certo punto, l'importante è che vi chiamino, almeno faccio qualche cosa la mattina, non sto a grattarmi le balle qui, cazzo. Con le balle piede, sta dentro casa, buttato, deve stare, ti viene il coso, capito, diventi depresso, diventi, perché non, a casa non, cosa fai? A casa giri, fai dalla sedia al coso, al televisore, al letto, invece in questo caso qua, prendo, me ne vado a lavorare a piedi, a posto di lavoro, senza pigliare manco il tram, e quando salgo lo stesso, almeno me ne scende un po' di pancia, come era scesa prima, in tempo una settimana mi era scesa tutta la pancia, mi era scesa, figurati. Almeno lavoro, e che sei anche legato in casa, perché lei non sta tanto bene, se no te ne era andato in giro. No, già sta uscendo adesso, meno male. Prima era sempre dentro a casa, adesso sta uscendo la mattina, alle 8 va da Sonia qua sotto, si prende un ginseng, sta con le amiche a parlare fino alle 10:30, 11 e poi sale a casa. Almeno si distrae. le gambe stanno proprio ripigliando, si capita. Prima invece era pericoloso, dovevo stare sempre appresso, non sia che magari cadeva nella scala, invece adesso scende tranquilla. Ah, tu ti stai, come si dice? Stai uscendo tu? Sì, sì, l'accompagno, vabbè che lei fa, come ti posso dire, 100-200 metri, poi dire l'affanno, hai capito? Sta facendo la documentazione da presentare a lì al coso, gli Arizzetto, hai capito? E quindi sta facendo queste visite che o da una parte o dall'altra, in modo da consegnare tutto alla commissione. Questo video sto dicendo, meno male che sta uscendo, perché almeno magari ti puoi svagare anche tu, capito, un po'. No, già esco io, vado a, come si chiama, faccio la spesa, poi a volte sono una mezz'oretta fuori, bevo una birra, per dire, e poi vieto a casa, capito? Se poi se non vado, non è che sia costretto ad andare al bar, se non vado al bar faccio la passeggiata a Giovanna, sto con lei e poi vieto a casa, capito? Anche perché scende la centro storico lì adesso, lì a Santo Donato specialmente c'è coprifuoco dopo le 3:30, cazzo. Ogni anno viene a fare la durata, ce la faccio a passare con le tue cittadinanze in tasca e me ne viene drogato a casa e me ne porta via tutto, non saranno. Inizio poco male, quello lo prendi, lo blocchi e si attacca al chigno. Sì, si attacca al chigno. Se nel portafoglio c'è il numero di coso, mica te, non è che te lo dico a memoria, no? Hai capito? Finché la carta te la fregano così e non sa il numero del PIN del discorso, se ti trova il numero del PIN dentro il coso, vanno direttamente al supermercato e si fanno la spesa alla faccia mia. Hai capito? Ma col tempo devi andare a fare la denuncia, cioè, perché sono già andato e sono fatto il minimo 200 euro di spesa. Che non è così, che loro rintracciano dove si fa la denuncia, rintracciano dove è andato e lo vedono bene bene in faccia, non ti preoccupare, in giro di poche ore se è un pregiudicato è già a casa sua la polizia a mettere le manette, non è così, no? Ma se penso che erano già spesi in teoria. Succede come è successo a quel vecchietto che è andato via all'ospedale per una settimana e si è trovata due nigeriani letto, capito? Sono fatti da padroni, si hanno portato via tutto, quello che c'aveva. E cosa è arrivato? Sono andati i carabinieri, gli hanno mappato solamente il volo e basta, e tutta la rifurtiva non l'hanno trovata. Purtroppo non ci puoi fare nulla, non è che puoi andare a spararli, no, a questi. Se fosse stato qualche pastore, sta tranquillo, e tu entri dentro l'ovile e non esci. Sono qua. Buonasera oggi. Ciao Anto, buonasera. Chihuahua e tutti gli altri, buonasera. Buonasera Eugenio. Allora, che si dice? Non penso che stavi lavorando fino adesso. Allora, cosa vendi? Per forza. Ma io pensavo facevi solo la mattina. Faccio la mattina lo sbarco, la sera l'imbarco. Ah, capretta. Ma cosa fa? Lavori alle navi? Ehi, lavoro sulle navi. Ma cosa, carichi camion, cosa fai? Quello li faccio. Porto i semi rimorchi a retromarcia dentro i traghetti. L'ho visto una volta fare una cosa del genere. Solo una volta. Io ho avuto i giochi. Ma lì chi paga? Chi è la ditta che paga? Come chi è che paga lì? Dico, non sono i padroni delle navi che ti pagano a te, cioè c'hai una ditta che lavori tu. Noi siamo una società e ci pagano gli armatori, no? Ah, ho capito. Abbiamo preso uno o due di rimorchi Trento. Quanto ce ne stanno dentro la nave? Dipende da quale. Ah, ma che cosa fai? Grimaldi e Tirrenia? Tutto è faccio, tutte. Tirrenia, Grimaldi, Sardina Ferris, GNV, tutte. Sono tutte noi, le facciamo tutte per forza, ci dobbiamo essere noi. Ho capito. Quanto ce ne stanno nella Tirrenia? Allora, nella Lunages l'altro giorno le abbiamo messo esattamente 93, 95, vabbè, quella cifra lì. Isuga! Oh, eccomi qua, sono rientrato. Sono rientrato. Ciao Lu. Vabbè, nella Grimaldi, quella per Civita Vecchia, quella per Barcellona, che sono uguali, abbiamo infilato 135 l'ultimo volto, ma ce ne stanno 200 e qualcosa. Ah, è buccia di giocano, mica sono bemme. Sono tanti, ma senza contare gli articolati, perché poi ci sono gli articolati, le motrici, insomma, ce n'è. Già, ma molti invece caricano camion e tutto, così è. Non ti ho capito tu. Ho detto, molti caricano camion e tutto, cioè proprio tutto il camion intero, L'articolato, sì. Quando non ce la fanno li prendiamo noi, li portiamo dentro noi. Ah, ho capito. È un'arte metterli bene anche, ci vuole molta esperienza. Lì dentro ci sono già 31 anni, fatti un conto. Ma la buccia di gioca, no? Poi prendi lui. Via. Kappa. Più avuto prodotto a Resucci. No, negativo, oggi c'è anche il cielo stellato, domani ha messo buono. No, oggi qua ha piovuto, però tipo verso le 10 è uscito il sole, 10 qualcosa, stava anche bene. C'era anche caldo, guarda. Tempo suo, L'estate ce l'abbiamo passata, si è fare un po' d'inverno. Ha piovuto ieri notte e stamattina presto. Sì. Hey. Sono uscito stamattina alle 4, stava piovendo. Sì, anche qua stava piovendo un bel. Però poi ha schiarito e buonasera anche a te, Chihuahua. E non ha più piovuto. E si conferma, Chihuahua. Tanto Eugenio è il padrone del porto di Porto Torres, il padrone. Senza lui non si muovono merci. Dopo tanti anni. Caspita, dopo tanti anni ha voglia. Ma lui è proprio il cuore del porto, capito? Il cuore del porto. Lui è proprio una compagnia portuale, sai cosa vuol dire? Che sono tutti quelli che, proprio, nel vero senso, è una compagnia, una squadra, che fanno muovere tutto l'organico dentro il porto. Senza la compagnia portuale il porto è morto, ma non quello del porto, tutti i porti hanno le compagnie portuali. E lui lavora in quella società, capito? E non c'è niente da discutere. Lavoro mamma di Lurchi. Capa, cavolo, tante c'è freddo, c'è. Meno male in questa casa c'è caldo, cavolo, si sta bene, sennò guai. A casa di Marina per un gran caletti, vabbè, quella è molto molto più grande della mia. E io qua sono a maniche corte, sto bene. Cosa vai, il tuo fattiso? No. Forse la tensione, che cosa ne so. Girati la febbre, che non abbi qualche di niente di febbre. No. No, sto bene qui, sono a maniche corte, sto benissimo. Ma io sono con il pigiama, leggero, non pesante, c'è il riscaldamento acceso, sono 20... 24-25 gradi, fuori a venire giorno ultimo, e poi 8 dezzi, sta benissimo. Ma c'ho 60 metri quadri di salone, io non ho più spesi, la mia. Forse anche di più tutte le stanze da letto, è un bel grande. Qua ci sono 14 gradi, non dentro casa, è fuori. Come sono rientrato, stavo guardando la macchina, mi segnava 14. Allora, se ce n'è 14 fuori, qua ce n'è 10. Sì, sì, qua ce ne sono 14, al porto ce n'erano 10, 11. Sì, Luca Benedetti, quanto c'è?